spiaggia del mare, sono i baracchi pieni di malandrini, uomini di malaffare, uomini di niente, picciotti e vecchi che si fecero un fronte un caddo da priera, che addomandano la limosina e sparlano di femmine onesti. Assai ritti sono uomini che, lordi e rotti a vizio infami, si arriparano come uomini di niente.